secondo per amare, non è tempo per soffrire. Il tempo fugge lentamente, tu ti vedi andare. Nel volo di un gabbiano che nel cielo spicca il volo, che tu vedi la tua vita aprirsi nel vuoto, ed è tutto poi silenzio, si cancella ogni ricordo, sei scomparso, sei fuggito, e cosa sei stato? Tu cerchi libertà, la cerchi in questo mondo, ma non sai che la vita non dura che un secondo. E vuoi felicità, la cerchi fino in fondo, ma poi perdi la vita, la perdi in un secondo. Non cogli mai un secondo del tempo che hai, ti preoccupi del dopo, del presente mai. Poi ti accorgi che hai fallito, hai tutto sprecato, e ti resta solo il fiato per dire addio. Tu cerchi libertà, la cerchi in questo mondo, ma non sai che la vita non dura che un secondo. E vuoi felicità, la cerchi fino in fondo, ma poi perdi la vita, la perdi in un secondo. Perdi in un secondo.